per far battere. Io dimostro fatti senza fare patti, con l'inchiostro nell'abiro nera scatti. Ed è normale, perché solo chi sta male veramente deve lottare per non smetter di mollare e lasciarsi andare. Sono caduto nella droga e non mi ho fatto un graffio, nonostante fosse un bel fottuto salto. E siccome per sfortuna stavo troppo in basso, mi sono detto Fabio cazzo torna in alto. Mi fidavo più degli altri che di me stesso, un errore tra i più grandi. Chiedimi adesso cosa ho perso in questi anni, beh forse il tempo, perché stare con i fessi diventi fesso. Ormai mi dicono un po' spesso sei troppo serio, non c'è divertimento. Ho perso troppo tempo e mo mi pento. Non c'è divertimento. Mi dicono tranquillo, comprende, poi dietro. Non c'è divertimento. Tu resta, aspetta il tempo, io lo inseguo. Ricordo quando stavo in giro tutto fatto e pensavo cazzo, sono le 4. Tra qualche ora io c'ho scuola, mo torno a casa e mi sbatto a letto, l'avessi fatto. Invece stavo in giro con un mio amico sul motorino senza benzina. In quei momenti non capivo se dirgli amico, ma la tua amica all'accendino. Ma questi quattro frati fanno rap, manco vanno a tempo e criticano me. A differenza loro lo faccio per passione, mica per il fatto che mi sento Eminem. Vorrebbero crollarsi sui miei passi, vorrebbero schiacciarmi, ma non mi spazzi via, non mi spiazzi mai. Occupo spazi in cui tu l'unica cosa che farai ci spazzerai. Ormai mi dicono un po' spesso sei troppo serio.